Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. 50.000 firme raccolte ad oggi, in poco meno di un mese da quando in centro Treviso venne allestito il primo banchetto per il referendum promosso dal sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini, che punta ad abrogare parte della legge Merlin e di fatto a riaprire le case chiuse. Appare ancora molto lontano l'obiettivo finale delle 500.000 firme, anche se il primo cittadino si dice ottimista. La raccolta, soprattutto presso i municipi italiani, è stata rallentata dal Ferragosto con molti uffici comunali chiusi, ma adesso che il lavoro riprenderà normalmente, Azzolini conta sull'appoggio degli altri sindaci italiani. Abbiamo l'adesione di molti sindaci d'Italia e di tutti i colori politici, a cominciare anche da sindaci del PD come quello di Monte Silvano, circa 50.000 abitanti, in cui mi recherò in questa settimana per fare qualche banchetto. Ancora un mese e mezzo di tempo per recuperare le firme necessarie, tempo che per il sindaco Azzolini dovrebbe essere sufficiente, anche se questa, diciamo che è la novità in coda dell'estate, novità relativa fino a un certo punto, però dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa comincia a essere una proposta articolata che parte da alcuni sindaci di modificare parzialmente la famosa legge Merlin, la legge del 58 che dispose appunto la chiusura delle cosiddette case di tolleranza. Lo so perché mi è arrivato anche a me il bollettino per poter partecipare al referendum, una cosa seria, ci sono banchetti in varie parti d'Italia, bisogna portare il documento, bisogna firmare e ci vuole qualcuno che riconosca la tua firma. Insomma, gli italiani metteranno il loro nome sul fatto che vogliono la riapertura delle case di tolleranza. Diciamo che la proposta è parziale, è un vorrei ma non posso, non è che viene abrogata del tutto la legge Merlin, viene abrogata soltanto nella parte in cui non è permesso comunque esercitare in maniera palese e commercialmente registrabile la professione della prostituta. In rete ci sono un'infinità di siti nostalgici, ultimamente ne è uscito uno in cui vengono mostrati quelli che erano tutti i documenti che avevano a disposizione le signorine che lavoravano in queste case di tolleranza, hanno addirittura, ma sicuramente, anche la loro cassa mutua, accumulavano comunque anzianità, avevano la loro pensione, avevano addirittura un attestato professionale, viene rilasciato, non ho capito bene da quale ente preposto. Oggi questo sarebbe totalmente ridicolo. Perché? Perché in Italia in realtà la prostituzione organizzata esiste ampiamente, esiste in un'infinità di luoghi riconoscibili, soprattutto in rete. Provate a digitare, come ho detto più volte, il termine escort, che è l'edulcorata versione dell'antica prostituta o dell'antica meretrice, e vedrete come avrete un database organizzatissimo, città per città, quartiere per quartiere, specialità per specialità, con le foto, con le prestazioni, con le tariffe, addirittura con le prove su strada dei clienti abituali. Questo mi fa pensare che in Italia in realtà non sia tanto il problema della prostituzione, come dicono i sindaci, che occupa le loro strade, impedisce la decorosa vita dei bravi cittadini, no, sia proprio un problema legato alla vita sessuale degli italiani. Esiste qualcosa che non funziona, che non si capisce bene, qualcosa di detto e non detto, se no non sarebbe così diffuso un sito come gnoccatravel.com, in cui esiste anche qui un dettagliatissimo esercizio per italiani che viaggiano in ricerca naturalmente di prostitute in paesi esotici. Anche questo è molto divertente, perché è divertente, poi se può sembrare divertente, è suddiviso per etnie, è suddiviso per nazioni, è suddiviso per frasi tipiche, ci sono le ragazze pay, che sono quelle che si fanno pagare, ci sono quelle, diciamo, loft, che sono quelle che lavorano a casa, ci sono, a seconda delle destinazioni d'uso del denaro di questi scurili viaggiatori, Rai 1, Rai 2, altre cose che non posso dire alla radio, che determinano le specialità nello specifico e quanto costano, il tariffario. Se gli italiani si possono organizzare in maniera così evidente, così palese, per la loro vita sessuale prezzolata e

Poi, se vogliamo fare una chiosa importante alla domanda che ci facciamo sulla serena gestione della sessualità da parte degli italiani, emerge un altro fatto. Fra reale e romanzesco, si è sempre favoleggiato in ogni paese, in ogni piccola provincia, di impeccabili signori che, vuoi per capriccio, vuoi per lussuria, vuoi per necessità di mantenere uno status che i loro mariti non riescono più a consentirgli, si dedicano in fase della loro giornata alla volontaria prostituzione. Una sorta di bel de jour alle nostre latitudini, lo ha rappresentato il romanzo che uscì un paio di anni fa, Portami tante rose, di Tenera Valls. Tenera Valls era una professoressa di lettere classiche, di greco, di latino, che a un certo punto della sua vita iniziò a prostituirsi. Questo lo aveva racchiuso in una sorta di suo memoir che fece molto scalpore. Noi la chiamammo in studio, la intervistammo, parlammo a lungo con lei e capimmo qual era l'escalation per cui dalla tristezza del quotidiano di una professoressa fra registri, fra colleghi squallidi, fra riunioni con i professori, con i genitori, via dicendo, a un certo punto ha detto: ma chi me lo fa fare di fare questa vita? E ha cominciato a prostituirsi, prendendoci anche grande gusto. Il Portami tante rose è una citazione di quello che i grandi puttanieri locali sanno benissimo, della frase tipica del cliente che si rivolge alla prostituta, contattata naturalmente via internet: non si può parlare di soldi perché si sa che siamo tutti intercettati, e poi, come se tutti non lo sapessero, si parla di rose. Quante rose vuoi? Voglio 100 rose, cioè voglio 100 euro per la prestazione. Tenera Valls ci fece questo suo racconto. Valls è, diciamo, l'anagramma di slave, perché lei soprattutto si dedicava a rapporti sadomaso, faceva la parte della donna passiva che subiva, ma aveva dei clienti di altissimo lignaggio, tutta la Roma bene pare che la frequentasse, meno così ci ha detto lei. Ma il dibattito, l'idea, il frisson che la donna qualsiasi potesse, la casalinga, la madre, il sacro angelo del focolare, anche dedicarsi alla più antica e detestata delle professioni, fece scuotere il nostro pubblico, anche femminile, e molti ci chiamarono, sia per testimoniare che ciò era vero, accadeva, sia per prendere inorridite le distanze. Io volevo esprimere la mia ammirazione per questa signora. Che può farlo anche lei ogni momento, guardi, non c'è ancora nessun impedimento. Ma guardi, ognuno si inventa quello che può. Ci ha mai pensato, Alba? Ci ha mai pensato? No, non questo, mi invento altre cose. Ogni tanto, quando sono nei miei momenti di down, di depressione, il modo per uscirne è: mi devo inventare qualcosa. Ma le è mai passata questa idea in testa di avere questo appuntamento al buio e farsi anche pagare? Guardi, come fantasia, non dico che sì, devo dire di sì, senza nessun problema. Ma no, perché mica, no? Delle fantasie rispondiamo solo di fronte a noi stessi, nessuno può essere giudice. E quindi lei ammira diciamo, una scelta così radicale. Guardi, io ammiro la scelta di chi è capace di inventarsi qualcosa che in quel momento, e dato un certo contesto, la faccia star meglio. E fa star bene anche tante altre persone. Anche altre persone, ma non è quello importante. L'importante è che faccia star bene la persona, la signora, in questo senso, senza alcun problema di tipo etico, morale, eccetera. Se la signora avesse probabilmente insistito nella sua vita noiosa, tetra, nel suo pesante quotidiano, probabilmente avrebbe danneggiato se stessa e danneggiato i suoi studenti, la famiglia e tutti gli altri. Ha fatto una scelta che le ha consentito di risollevarsi e probabilmente di dare anche a chi era intorno a lei un altro tipo di energia, perché se ti senti meglio tu, chiaramente l'energia la infondi anche a chi vive. Non vorrei essere equilibrato, non è che fa la croce rossina, si fa pagare, fa la puttana e si fa pagare. Sì, ma non è quello, no, sì, allora, lo dico con la leggerezza che do questo termine, perché sennò no, sembra... Guardi, prego, sì, tenera. Chiamiamo le cose con loro nome. Alba, un attimo. Scusa Tenera, visto che io ogni tanto mi scappa il tutto. La signora Alba è una delle bellissime e forti donne che hanno il coraggio di dire a Tenera Valls grazie per aver fatto questo. Quanti mariti ti portano la moglie? La maggior parte degli uomini, anche lettori, non riescono a farlo. Dicevo, quanti maschi. Mariti portano la moglie in un rapporto con la prostituta? Se la portano al seguito? Ma ormai sempre più spesso, ed è una delle soluzioni che le coppie adottano in momenti che, dopo svariati anni di relazione, e le mogli sono d'accordo?